a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Signor Presidente, siamo ad un punto di questa guerra che sta mettendo a repentaglio i più grandi capolavori storici conosciuti dall'umanità. I nazisti stanno razziando opere d'arte in Italia, ad Amsterdam e Parigi. Mettiamo insieme una squadra per proteggere quello che è rimasto e trovare quello che manca. Monuments Man. Firmato da Roosevelt. Quanti uomini? Per adesso 6. Beh, con te fanno 7. Non sei un tantino vecchio? Sì. Durante la Seconda Guerra Mondiale, loro furono scelti con una missione speciale: sottrarre i capolavori dell'arte europea alla distruzione dei bombardamenti. Ma i Monuments Men, come quelli celebrati al cinema da George Clooney, esistono tuttora in Italia e anche oggi, in tempo di pace, lavorano per difendere busti millenari, statue di divinità greche, ceramiche dai motivi mitologici. Sulle loro trincee non piove il fuoco dei nazisti nel rombo delle contraeree, ma le armi nemiche sono gli scavi dei tombaroli, le vendite clandestine dei trafficanti d'arte, sono gli interessi e la corruzione internazionale, sono la pioggia di milioni usata per accaparrarsi capolavori senza prezzo, capaci di impreziosire celebri collezioni private, prima soprattutto americane, poi ora anche giapponesi o arabe, o capaci di richiamare visitatori nei più prestigiosi musei del mondo, compreso il Metropolitan di New York. Devono sfidare carte bollate, accordi diplomatici e pure apatie politiche i nostri Monuments Men di oggi, che negli ultimi anni sono riusciti a riportare in Italia decine e decine di opere dopo battaglie legali con templi sacri dell'arte come il Getty Museum. Ma incassati i successi, come non di rado succede da noi, ecco la brusca frenata, ecco il disinteresse e lo stesso rischio sopravvivenza per l'intera squadra. Perché troppo bravi? Si chiede chi in questi anni ha coordinato la squadra dei cacciatori di tesori, Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, volto dell'Italia nei tribunali di mezzo mondo in nome dell'arte, della bellezza e della storia, che ora, dai microfoni di A Ciascuno il Suo, lancia un appello al futuro ministro della Cultura. Ci sono molte potenzialità nell'amministrazione. C'è una grande disponibilità dell'arma dei carabinieri, c'è un'ampia disponibilità dell'opinione pubblica. Cerchiamo di rispondere a questa richiesta e non cessiamo atteggiamenti burocratici o d'altro, ma guardiamo la sostanza delle cose. È stato il furto di una ceramica vecchia di 2000 anni, il vaso di Asteas, venduta per un maialino e 1 milione di lire, a portare quasi 40 anni fa alla nascita di questa squadra di cacciatori di tesori, che negli anni è riuscita a far rientrare in Italia quella e molte altre opere, sfidando nelle aule giudiziarie mostri sacri come il Getty Museum o la casa d'asta Sotheby's, leggi desuete, corruzioni moderni e interessi pazzeschi. E ora, prima di andare in pensione, Fiorilli vorrebbe riportare a casa 700 opere rintracciate già a Londra e vorrebbe rivedere in auge la sua squadra. C'è una grossa operazione in corso, che è un processo di avvenuta confisca di una statua attribuita a Risippo, che è stata pescata nel 1964 nel mare Adriatico. E che fine ha fatto quella statua? È stata nascosta in territorio di Fano, sepolta nell'orto di una canonica, poi nascosta in una vasca da bagno coperta da un tendaggio rosso. La statua è stata esportata, o esportata in Brasile o in Inghilterra. È stata trasferita dall'Inghilterra alla Germania, a Monaco di Baviera, nel magazzino di un antiquario. Lì è stata visionata, tra gli altri, dal direttore delle antichità del John Paul Getty Museum. Poi si è rivolto al direttore delle antichità del Metropolitan Museum di New York. C'è stato un momento in cui è sembrato molto febbrile questa, molto intensa, molto anche partecipata a tutti i livelli, questa vostra attività di rientro delle opere d'arte trafugate italiane. È una mia sensazione o appunto in questi ultimi periodi tutta questa spinta nei confronti della vostra... C'è stata una certa disattenzione proprio in relazione a questa storia relativa all'atleta vittorioso. Possiamo trovare un po' una sintesi di quello che è stata l'attività di questa commissione. Stiamo parlando di molti governi fa. Qualche governo fa, sì, l'ultimo governo Berlusconi, con la sequenza di ministri e non hanno avuto questa attenzione, non l'ha avuta neanche l'ultimo ministro dei beni culturali. Ma la domanda che lei mi ha fatto fa riferimento alla ragione per la quale si sono iniziati questi negoziati. La ragione è un procedimento penale che è stato iniziato dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di vari personaggi italiani e direttori di musei, in particolare della dottoressa Marion Tru, direttore delle antichità del John Paul Getty Museum. Il Getty si è preoccupato di cercare un accomodamento con il Ministero ed ha offerto al Ministero dei Beni Culturali tre oggetti: il cratere di Asteas, il ratto di Europa, esatto, sì, che oltretutto è stato trovato in una zona delle mie terre di origine, la zona di Benevento, esatto, direi, esatto. Poi un candelabro di bronzo etrusco e poi una iscrizione funeraria etrusca. Si prende questa iniziativa unicamente per creare un clima di collaborazione con l'Italia. La realtà è che ci chiedono di soprassedere dal procedere nei confronti della dottoressa Marion Tru al Ministero. Il suo capo di gabinetto era il dottor Squitieri, che attualmente è presidente della Corte dei Conti, certo. Il quale ha incaricato me e i carabinieri di approfondire la questione. Abbiamo depositato una Polaroid nella quale era raffigurato lo scavatore, cioè il tombarolo, con in braccio il cratere di Asteas. E in più abbiamo dato documentazione che questo cratere, questa ceramica, era stata venduta per un porcellino e per 1.000.000 lire. I meccanismi, diciamo, anche per le opere più importanti sembrano essere sempre gli stessi, cioè 4 soldi o addirittura un porcellino, esatto, e 1.000.000 di lire. A chi trova queste opere importanti, su cui subito piombano quelli che sono i veri, diciamo, esperti, che quindi le immettono nei circuiti internazionali a così alto livello tanto da farle arrivare nei templi sacri della cultura internazionale. No, a quel tempo non c'era nessun controllo. C'era un atteggiamento, prima di questi procedimenti penali, di una certa assuefazione. La giustificazione era quella: questi beni sono stati acquistati sui mercati meridionali perché dopo la guerra noi eravamo poveri e quindi ci vendevamo anche le opere d'arte. Potevamo venderli. Può costare davvero poco saccheggiare il patrimonio archeologico italiano, poco più che un contentino per il disturbo e una buona mangiata, che va sempre bene. È successo così in passato. Era diminuita questa razzia con l'opera di questi Monuments Men, nella cui squadra fa parte anche il nucleo dei carabinieri di tutela del patrimonio artistico, già diretto dal generale Giovanni Nistri, poi mandato a risollevare le sorti di Pompei, che così invece leggeva ai nostri microfoni negli anni scorsi questo dato. Qualcuno ha parlato di una grande razzia, di una grande spoliazione, soprattutto negli anni passati. I vostri dati evidenziano una flessione anche degli scavi clandestini accertati. Come trend è un trend in diminuzione, ci porta a ritenere che effettivamente alcuni dei gangli vitali di questo traffico verso l'estero sono stati tranciati. Faccio per esempio riferimento a quei grossi procedimenti penali che la Procura di Roma ha avviato e taluni già portati a compimento nei confronti di vere e proprie organizzazioni per delinquere che provvedevano attraverso lo scavo clandestino, quindi attraverso l'opera dei cosiddetti tombaroli di vario livello sui luoghi dello scavo, provvedevano poi al convogliamento di questi reperti archeologici verso paesi esteri, uno per tutti la Svizzera, dalla Svizzera poi attraverso operazioni di vero e proprio riciclaggio che consistevano in false attribuzioni a collezioni private estere, in false attribuzioni di proprietà, da lì venivano poi messi sul mercato ed esportati. Avendo appunto potuto colpire i principali gangli del traffico verso l'estero, in questa fase noi riteniamo che gli scavi clandestini e il traffico di reperti archeologici sia un po' più ridotto quantitativamente e qualitativamente. Una diminuzione degli scavi illeciti che per un certo tempo è andata di pari passo con il rientro delle opere trafugate, un trend messo a dura prova però di recente da un prolungato disinteresse politico e nonostante i risultati eccellenti ottenuti. A ciascuno il suo. Puoi sterminare un'intera generazione, bruciare le loro case e troveranno una via di ritorno. Ma se distruggi la loro storia, la loro cultura, è come se non fossero mai esistiti. È questo che vuole Hitler. Ed è esattamente questo che combattiamo. I nazisti, lo sono i trafficanti d'arte di ogni epoca, sono ladri di storia che vendono insieme a capolavori di enorme valore pezzi di passato e li vendono a chi con i soldi vuole comprare quella storia culturale che non ha. Raccontano questo, le battaglie giudiziarie per riportare in Italia i capolavori trafugati, ma raccontano pure di interessi economici pazzeschi, di volontà politiche spesso appannate quando non compromesse. Protagonisti di queste sfide, la squadra dei nostri Monuments Men, guidati per anni da Maurizio Fiorilli, storico avvocato dello Stato. Una squadra che in un certo senso, racconta, ha raccolto l'eredità di chi pure da noi pensava a salvare le opere d'arte. Il Monuments Men attualmente sarei io. E noi abbiamo due grandissimi personaggi, un grandissimo personaggio, che è Rodolfo Siliero, l'artefice prima del recupero di molti beni trafugati dai nazisti, anche inseguito i nazisti perché non portassero questi beni che erano riusciti a trafugare in Germania. Un altro grosso personaggio era questo Pasquale Rotondi, che era un soprintendente, che ha salvato più di 10.000 opere nascondendole. Ha dovuto sfidare il Getty Museum e il Met di New York, la casa d'asta Sotheby's e moltissimi governi del mondo, questa squadra di cacciatori di tesori nostrani, che ora punta a riportare in Italia 700 opere finite a Londra. Perché è nei templi massimi dell'arte internazionale che alla fine arrivano capolavori recuperati nelle campagne soprattutto del nostro mezzogiorno. Ma non sempre in queste sfide hanno avuto e sentito l'appoggio necessario dei vari governi e non di rado i nemici, i nostri Monuments Men, li hanno incontrati proprio tra chi certi beni doveva difenderli, come prova la storia dei furti alla biblioteca dei Girolamini di Napoli, raccontata così dall'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, che questa commissione speciale di cacciatori d'arte ha a lungo guidato. Noi non abbiamo mai chiesto nulla di cui non avessimo la prova del trasferimento successivo all'anno 1970, perché nell'anno 1970 è stata sottoscritta la Convenzione UNESCO che riguarda appunto il recupero dei beni culturali. Contiene un obbligo fondamentale, quello degli Stati di individuare il proprio patrimonio, salvaguardarlo e valorizzarlo. La gravità di questo saccheggio che viene fatto nasce dal fatto che ci sono delle persone che non hanno storia e che vogliono acquisire la storia di altri. Sbaglio se dico che è soprattutto appunto negli Stati Uniti e in questi musei che sono finite anche queste molte delle opere trafugate italiane? Non era assolutamente. Un altro mercato che si è aperto è quello del Giappone, un altro mercato che si è aperto è quello degli Emirati Arabi, perché la ricchezza chiama l'acquisizione di questi patrimoni. Appropriandosi di questi beni ti appropri anche della storia del luogo di provenienza. La ricchezza chiama anche la corruzione però, e questo spesso sta dietro a molte di queste storie, anche giusto? Anche la corruzione. Infatti il primo episodio della statua della atleta vittorioso attribuita a Lisippo, i carabinieri erano arrivati ad identificare il luogo in cui si trovava questa statua, però stranamente non hanno trovato nulla. E stranamente, che ha dato pareri al Getty, ha affermato, ma noi avevamo delle entrature ministeriali, ottenuto una autorizzazione all'esportazione, l'autorizzazione all'esportazione non si è mai trovata. Quando il pretore di Gubbio ha chiesto al giudice di Monaco di Baviera di sequestrare questo pezzo, la risposta è stata quella: non possiamo sequestrarlo prima di tutto perché non mi hai esattamente individuato il pezzo. Ma in secondo luogo perché comunque c'è una legge, un accordo tra l'Italia e la Germania, Germania nazista, per cui non possiamo restituirvi i beni. Vengono considerati validi tuttora? Ed è singolare che di fronte a questa affermazione non si sia reagito da parte delle autorità italiane. E questo la dice sempre lunga su quanto dicevamo prima, cioè sul fatto che alle spalle di questa attività di qualsiasi squadra speciale, oltre a tutte le difficoltà normative, burocratiche, diplomatiche che ci sono intorno a questi casi, ci deve essere sempre una ferma e decisa volontà politica. È materia di penale specialistico, di civile specialistico. Insomma, una normativa particolarmente complessa che necessita una conoscenza profonda della materia. Ecco, tra i casi diciamo di furti di opere importanti ha fatto molto clamore tutta la vicenda giudiziaria riguardante i furti alla biblioteca dei Girolamini di Napoli. Esatto. Ecco, anche voi in qualche modo vi siete occupati del tentativo di recuperare dei manoscritti. Sì, io mi sono preoccupato di quello che è un prodromo di questa questione. Noi avevamo avuto indicazione che presso Sotheby a Londra, quindi una delle principali case d'asse al mondo, ecco, erano presenti tre manoscritti. Due provenivano dalla biblioteca dei Girolamini, un terzo dalla cattedrale di Trani. Queste opere erano state trasferite in Inghilterra da parte di un funzionario di Sotheby, il quale aveva preso questi beni a Milano e li aveva trasferiti insieme ad altri beni in Inghilterra. Alla nostra richiesta Sotheby ha risposto con un'azione giudiziaria di fronte al Tribunale di Londra. Sotheby ha detto: ho questi beni, so che sono di provenienza illecita. Da questo è nata una causa di fronte al Tribunale di Londra che è costata all'Italia molto molto molto denaro, però che si è conclusa con una transazione tra l'Italia e Sotheby. Questi beni sono stati dissequestrati ed affidati uno alla arcidiocesi di Trani. Gli altri due dovevano essere affidati alla biblioteca dei Girolamini. Quindi a Napoli. È accaduto che il giorno dopo che è avvenuto il dissequestro, si è presentato alla Procura della Repubblica di Bari il direttore del museo della biblioteca dei Girolamini, biblioteca Girolamini, il signor Massimo De Caro, consigliere giuridico del Ministero dei Beni Culturali, caricato di questa attività dal ministro Galan e poi confermato, il quale ha preso questi beni, dopo poco tempo ha detto di aver recuperato 32 manoscritti da Christie, dopodiché è avvenuto questo accertamento. Tutto il resto, ecco, e poi dopo per tutta questa stessa vicenda, lo stesso De Caro è stato condannato, anche in carcere. Quindi lei ha vissuto diciamo la fase iniziale di tutto quello che intorno alla biblioteca di Girolamini sarebbe venuto fuori. Anche perché la Procura della Repubblica di Napoli, la prima cosa che ha fatto è stata quella di chiedere: ma come mai il governo italiano ha speso 800.000 sterline per recuperare due pezzi e questo spontaneamente recupera 32 pezzi che vengono trovati a casa sua, e poi soprattutto dice che esiste questo rapporto con Christie per cui restituisce quello che uno viene chiesto solamente perché si presenta come un consigliere ministeriale. E questo, questi sono stati tutti i sospetti. Ci ha messo in difficoltà, scusi. Avviandoci alla conclusione, avvocato, le voglio chiedere due cose. A lei quale sarebbe ora l'opera che lei personalmente desidererebbe riportare in Italia, e che cosa sarebbe necessario, ecco, per rilanciare un po' il lavoro di questa squadra di Monuments Men? Abbiamo in corso una trattativa per il recupero di oltre 700 pezzi che sono a Londra, nella disponibilità della liquidazione della Robin Symes Limited. Robin Symes è uno di questi mercanti d'arte implicato in questi commerci clandestini. E lei è fiducioso di riuscire a riportare in Italia questi 700 Guardi, pezzi? Il giorno 26 c'è il processo contro Robin Sykes. Verrà applicata la prescrizione, ma confidiamo che venga disposta la confisca di questi beni. La seconda risposta riguarda il futuro, diciamo, di questa stessa squadra. Il futuro, ecco, questa squadra dovrebbe essere ricostituita, ma dovrebbe essere ricostituita non con un intendimento burocratico. Bisogna affrontare problemi giuridici, bisogna affrontare anche problemi diplomatici, bisogna operare non come dei commercianti, ma di operare come degli appassionati d'arte, professionisti che vogliono di usare il proprio diritto, il diritto internazionale, in modo da arrivare a un risultato. Siccome la documentazione raccolta in sede processuale penale è molto vasta e consente di chiedere in restituzione molti pezzi che sono nei musei americani, musei europei anche e musei non solo, anche in Giappone, insomma. Se ci si impegnasse in questo si potrebbero ottenere dei risultati, ma abbiamo cercato anche di dare ulteriori indicazioni per il recupero di altri pezzi che sono presso musei americani. Quindi al prossimo ministro della cultura la richiesta è rimettere in piedi questa squadra di recupero dei capolavori trafugati. Questo senz'altro è una raccomandazione forte. Recuperare le opere, ma salvare soprattutto la storia. Così soprattutto questo avvocato dello Stato, Maurizio Fiorilli, ha vissuto la sua opera ed è per questo che è stato particolarmente felice della mail di uno studente di Trento che lo ringraziava per il recupero del cratere di Asteas, perché insieme a quell'opera antica di 2000 anni era stata ritrovata, gli ha scritto pure, una parte della sua memoria. Ed è questo che i Monuments Men d'Italia vorrebbero continuare a fare, nella speranza che vengano dati loro tutti gli strumenti per riuscirci. E a voi che effetto fa pensare che nei più importanti musei di mezzo mondo ci possono essere opere rubate in Italia? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, ci trovate sul sito radio24.it. Ciao a tutti, a presto.